Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il sole alto di mezzogiorno ci coglie quando non è lontana la cupola di Casal Maggiore. Io ho fame, dice Rosanna. Anch'io, fanno eco gli altri bambini. Il papà allora decide di accostare il gommone ad un pontile solitario. Lo lega saldamente e fa scendere tutta la truppa. Ci mettiamo seduti sotto l'ombra di qualche albero in un bel prato. Prendo i panini dalla cesta e comincio a distribuirli. Il papà, magnanimo, ci concede i suoi e dopo aver preso in mano la tanica, decide di andare a fare il rifornimento di miscela. Mi chiamo Aria Clerici, sono milanese trapiantata a Brescia. Ho superato i tre quarti di secolo, ho avuto 4 figli, adesso ho 6 nipoti, ho insegnato lettere per ben 40 anni, adesso naturalmente sono in pensione. E lo dico sempre che tra le varie categorie di racconti che arrivano a Voi Siete Qui, @radio24.it, che raccontino qualcosa di voi in una pagina, come la cosa che vi chiedo ormai dalla primavera scorsa. Di tutte queste categorie che si formano naturalmente, semplicemente, o meglio, le formiamo noi, io, Stefano e Tiziano, per aggregazione, no? Per cui racconti che riguardano l'infanzia, racconti che riguardano lo sport, che riguardano l'amore, quello come al solito ce ne sono un sacco, e poi altri, la scuola, il lavoro. C'è una categoria che io amo particolarmente, che sono quelli che in realtà non sono classificabili, perché non sai dove prenderli, cioè non sai dargli un titolo o metterli in una categoria. E allora io li definisco episodi minimi, cioè sono semplicemente delle piccole storie che raccontano qualcosa, quindi hanno un inizio, uno sviluppo e per lo più una fine, ma non sai bene da che parte prenderli. Ecco, questi sono comunque quelli che preferisco, perché come nel caso di Aria, Aria è la protagonista della storia di oggi, è la donna che ha scritto questa storia, come in questo caso c'è qualcosa di profondamente intimo nel modo in cui un piccolo pezzo di vita sua, della sua famiglia e di suo marito in particolar modo, racconti molto di più, perché in realtà poi nel tono, nelle parole usate da Aria, c'è tutto l'amore, tutto l'affetto che prova e provava nei confronti di suo marito, anche un po' di rabbia e di scoramento per certi versi. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Se dovesse avere un titolo, la puntata di oggi sarebbe la cosa peggiore che vi ha combinato vostro marito. Si parla di sviste, non si parla di cose tragiche o particolarmente drammatiche, no, oggi no, si parla proprio, sapete quelle cose che quando gli amici, coppie di amici o famiglie si incontrano magari ad una cena o magari in vacanza, a un certo punto quando parte questo argomento, tu non sai che cosa ha combinato mio marito, tu non sai cosa ha combinato Claudio o Giovanni, le mogli cominciano a parlarsi, a raccontarsi queste cose e spesso lo fanno come se il marito non fosse lì, come se lui non fosse presente, un po' come fanno le mamme quando parlano dei figli. Questa è una cosa che anche mia mamma fa sempre quotidianamente con me quando ci si vede: ah sì, ma lui fa così, come se io non ci fossi. Ecco, è la stessa cosa fanno le mogli quando parlano dei propri mariti e dicono: ma non sai cosa mi ha combinato. 349-238-6666, ma anche 800240024. Oggi il telefono è aperto solo per le donne, mogli, fidanzate, ma vale anche ex mogli o ex fidanzate, che raccontino quella che vi ha combinato vostro marito. Vi faccio un esempio. Valentina, antivigilia di Natale. Torno dal lavoro e appoggio tutto quello che ho nelle tasche sul settimino. Cos'è il settimino? Sarà il comò, ok, il comò, grazie Paolino. Sul settimino, tutto tra cui la mia chiave USB. Mi preparo per qualche giorno di ferie e di relax. Dopo poco mio marito parte per il suo ultimo turno di lavoro, prima del Natale. Prende le chiavi e tutte le altre cose dallo stesso settimino. A notte fonda torna a casa. Sto dormendo, mi sveglia e mi dice: cara, devo dirti una cosa. Aveva preso per sbaglio la mia chiave USB, credendo fosse la sua, essendoci una password protettiva ed essendo convinto che fosse la sua, ha superato i 3 tentativi di password, così la chiavetta si è autoformata mattata e io ho perso tutto. 800240024. Donata, ho comprato una motoretta. No, perdonatemi, ha comprato una motoretta di quelle da camper, nel senso che sono piccole e le puoi caricare. Cilindrata 125. Una delle cose più brutte che io abbia mai visto in vita mia. L'aveva pure intestata a me, perché ogni tanto i mariti ne fanno questa roba di intestare le cose alle mogli. Ricordo che l'aveva anche modificata, così da farci stare il bauletto. C'è stato perfino un gran casino perché sono moto importate dalla Cina e la prima che era arrivata non era stata immatricolata. Quella volta stavo per chiedere il divorzio. Ero arrabbiatissima, per fortuna è durata poco. Ha trovato un altro pazzo che è venuto a prendersela. 349-238-6666 oppure 800-24-0024. La più grossa che vi ha combinato vostro marito. Questa però è la storia di Aria. Alle 9 di mattina di una calda domenica d'estate, la città di Torrazzo è ancora mezza addormentata. Una volta arrivati, ci dirigiamo subito verso la motonautica, dove cominciano le operazioni di alaggio per calare il gommone in acqua. Io seguo con trepidazione, ma non ci metto le mani. Spingerei sicuramente il canotto fuori rotta. È più facile badare alla cesta, piena di panini e di bibite. Una volta scesi sulla pedana di legno, si controlla la miscela e vengono distribuiti gli incarichi e i posti. È importante che ognuno sappia cosa fare e che si sieda in modo da mantenere l'equilibrio del gommone. È per questo che la frase che viene ripetuta più spesso è: bambini, non muovetevi. E poi arriva il momento solenne, quello in cui il papà mette in moto il motore del fuoribordo. Ci vuole sempre un po' di tempo. Per non irritare il manovratore, rimaniamo in religioso silenzio. Ci limitiamo ad un compiacente sorriso di incoraggiamento che esplode in un evviva quando il motore comincia a cantare come si deve. Con mio marito facevamo molto spesso gite in gommone sul fiume Po, che è bellissimo. Il gommone aveva un motore, non era grande, eravamo papà, mamma e 4 figli. Navigare il fiume è meraviglioso. Siamo vestiti in maniera spartana. Costume, copricostume e ciabatte. Obbligatorio un cappellino in testa. Papà sfoggia una canottiera decisamente troppo vecchia e calzini azzurri stinti. Ora il motore canta senza intoppi. Navighiamo sulle acque un po' torbide dalle quali qualche pescatore cerca di acchiappare un cavedano o un'arborella. Seguiamo la corrente, passando sotto il ponte dell'autostrada. Il Torrazzo scompare dietro i pioppi. Qualche gabbiano di fiume si alza dalle rive. Vediamo qualche famiglia in gita sulle larghe spiagge sabbiose. Il sole alto di mezzogiorno ci coglie quando non è lontana la cupola di Casalmaggiore. Io ho fame, dice Rosanna. Anch'io, fanno eco gli altri bambini. Il papà decide dunque di accostare il gommone a un pontile solitario. Lo lega saldamente e fa scendere tutta la truppa. Ci mettiamo seduti sotto l'ombra di qualche albero in un bel prato. Prendo i panini dalla cesta e comincio a distribuirli. Il papà, magnanimo, ci concede i suoi. E dopo aver preso in mano una tanica, decide di andare a fare rifornimento di miscela. Noi rimaniamo lì, all'ombra, a gustarci pane, mortadella e uova sode. L'ombra è fresca. Ci sdraiamo e aspettiamo. Papà, però, tarda. Era imprevedibile. È stato anche un uomo politico, naturalmente un bravissimo democristiano. Era veramente imprevedibile nelle cose. Quindi io sono sicura che lui ci ha lasciato lì, ma era convinto di andare a prendere la benzina con la tanica. Poi si vede che ha visto questo celeberrimo ristorante, che a quei tempi era molto celebre, adesso non lo so, è Stendhal, dove pare che Stendhal si sia fermato per scrivere La Chartreuse de Parme. E così si è fermato lì, si è che aveva fame, ha detto: beh, quelle hanno i loro panini, se ne stanno bene. Non hanno ancora inventato i telefonini. Non abbiamo modo di sapere dove sia. E una lieve inquietudine serpeggia nella pace padana. Mi rendo conto di non avere con me neppure il portafoglio. Così, abbandonata con 4 figli in un'ansa del Po, mi metto a cercarlo. Percorriamo un lungo sentiero che sfocia su una strada asfaltata. Di distributore di benzina nemmeno l'ombra. In fondo alla strada, però, si vede una costruzione bassa. Potrebbe essere una vecchia casa colonica. Non ci resta che dirigerci lì. Avvicinandoci però ci accorgiamo di un piccolo pallino azzurrino messo proprio davanti al portone d'ingresso. Caterina, che ha la vista buona, è la prima ad accorgersene. Quella è la nostra tanica. Una volta raggiunta la costruzione capiamo di trovarci di fronte a un ristorante. Un ristorante reso celebre da un celebre scrittore francese. La semplicità dell'esterno è solo un inganno. Oltrepassato il portone si apre un patio fiorito, pieno di tavole imbandite. Al centro c'è anche una fontana. Delle signore elegantissime osservano un robusto cliente che è incurante di un abbigliamento poco consono, una canottiera decisamente troppo vecchia e calzini azzurri stinti, sta concludendo un dialogo serrato con una grigliata mista. Noi avvampiamo di vergogna nei nostri copricostumi spiegazzati e i sandali sporchi di Rena di Po. Oh, bene, siete arrivate, volete un gelato? Non ho chiesto il divorzio, la legge italiana all'epoca ancora non lo consentiva. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. It's good enough for our Billy Burroughs. It's good enough for me. Ogni tanto ci capita di leggere delle strane notizie sui giornali. Non parlo dei siti internet dei maggiori quotidiani, che ormai ricordano più che altro una versione un po' folle di forse non tutti sanno che della settimana enigmistica. No, no, io parlo di quelle piccole storie che spuntano spesso nelle pagine delle cronache locali. Piccole storie di gente comune. Alcune sono talmente assurde che sembrano delle barzellette. Cioè, sono talmente incredibili che sembrano veramente inventate. E invece no, il più delle volte sono vere. Ce n'è una che mi è rimasta impressa per anni, anzi ci penso ancora ogni tanto, ogni volta che finisco in un autogrill. E ci hanno costruito anche un film sopra. Si chiama Pane e Tulipani, è un film di Silvio Soldini, del 1999. Insomma, all'inizio di quel film lì, la protagonista, che è Alicia Maglietta, viene dimenticata dal marito in autogrill. Non viene abbandonata dopo una lite o cose del genere. No, no, semplicemente il marito se la dimentica. Come ci si dimentica, che ne so, il portafoglio sul tetto della macchina dopo che hai pagato il benzinaio o l'ombrello a casa di qualcuno? Quello era un film, però la notizia è vera. E non so dirvi se viene prima il film o la notizia. Quello che è importante però è che è successo veramente, cioè che c'è stato un marito che ha dimenticato la moglie in autogrill. Ed è andata così. Dunque c'è questa coppia che sta tornando a casa dalle vacanze ed è in autostrada. Si fermano a mangiare qualcosa, poi lui va a fare benzina e lei va in bagno. È una scena normale, l'abbiamo fatta tutti. Solo che quando lei esce dal bagno, non lo trova più. Semplicemente lui aveva fatto benzina e poi si era messo in marcia verso casa. E la cosa incredibile è che si è accorto di essere da solo in auto 6 ore dopo. Che sono tante 6 ore. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a fare una roba del genere? Cioè, cosa ti scatta nella testa? Mi è venuto in mente che più o meno a tutti capitano cose simili. Cioè, va bene, non proprio così, non fraintendetemi, questa è particolarmente grave. Ma se ci pensate, è così. Vi faccio degli esempi. Quante volte eravate in sovrappensiero, in macchina, e invece di andare verso casa dei vostri genitori che avevano invitato per cena, avete fatto quasi sotto ipnosi la strada che fate tutte le mattine per andare al lavoro? A me succede una cosa strana, che passo talmente tanto tempo qui in radio che quando torno a casa ogni tanto mi suona il telefono e quando rispondo dico pronto Radio 24. Che sono degli automatismi, cose che facciamo in automatico perché siamo abituati a farle tutti i giorni, quasi in loop. Quell'uomo, quello che si è dimenticato la moglie, probabilmente si spostava spesso in macchina per lavoro, tutto qui. E per lui la sosta all'autogrill voleva dire caffè, benzina e ripartire. Tutti i giorni, per milioni di volte. C'è da dire un'altra cosa però. C'è da dire che questi automatismi significano sempre qualcosa. Forse se al posto di andare a casa dei vostri vi ritrovate sotto il vostro ufficio, significa che di cenare con loro quella sera magari non avete tanta voglia. O forse quando rispondo al telefono dicendo Radio 24 vuol dire che non ho voglia di stare a casa da solo. E forse c'è la remota possibilità, che quell'uomo non avesse più molta voglia di stare insieme a sua moglie. Magari il marito di Aria quel giorno non ci ha pensato più di tanto a quello che stava facendo. Mettendosi a mangiare da solo in quel ristorante non voleva fare uno sgarro a qualcuno. Magari è partito, come sempre, per andare a fare il rifornimento di miscela. Poi si è trovato da un momento all'altro come in trance a mangiare una grigliata mista. O magari quel giorno di fare la solita gita col gommone da mettere in acqua, coi bambini che urlano, coi soliti panini e la mortadella. Magari non aveva proprio voglia. E Aria, giustamente, ha pensato al divorzio. Why is it so hard to make it in America? I tried so hard to make it in America. A me me piacciono particolarmente le storie legate al fiume, forse perché sono cresciuto in una di quelle terre della pianura padana in cui non si vede uno straccio d'acqua se non vicino al Lago Maggiore, che dista almeno un'ora di macchina, e quindi il Ticino era un po' l'orizzonte d'acqua che a me e agli amici assomigliava di più al mare, e ci andavo spesso. Quindi ogni volta che leggo qualcosa che ha a che fare con i fiumi, da Pavese in giù, per arrivare fino ad Aria, io in qualche modo me ne innamoro. Pronto, Aria? Sì, pronto. Ciao, come stai, Aria? Bene? Bene, grazie. Innanzitutto grazie mille per il tuo racconto, che appunto hai capito il motivo per cui mi piace particolarmente, perché sono affezionata ai fiumi. La prima cosa che mi viene da chiederti è, visto che non ci sono riferimenti temporali, quando accade più o meno tutto ciò? Dunque, attorno al 1974-75. Quindi voi eravate, dicevi prima, una famiglia, eravate moglie e marito, sì, e quattro figli. Quattro figli, sì. Quindi 75 è la mia età, cioè 36 anni fa. Quindi 36 anni fa c'erano già gommoni con tanto di motore a scoppio? Altro che, c'erano gommoni con motore, poi c'erano le pagaie naturalmente per seguire la corrente e non andare a infilarsi dentro in qualche angolo di po'. Chi è che aveva la passione per il gommone? Tuo marito, immagino. Tuo marito che dicevi che non c'è più, però all'epoca obbligava la famiglia a queste gite. No, erano obblighi fantastici, non era un obbligo, eravamo tutti molto contenti. Da Brescia, esattamente poi da un paese che si chiama Quinzano d'Oglio, che è sulla strada verso Cremona, il suo paese. E lì alla domenica si faceva questa gita, sempre molto bella. Poi le spiagge del Po sono bellissime e si vedono scorrere le rive. Senti, quanti anni avevano i tuoi quattro figli in quel momento? Nel 74 una aveva 10 anni, una ne aveva 9, una ne aveva 7 e uno ne aveva 4. Senti, invece prima ci hai raccontato di tuo marito come un democristiano per bene, no? Cosa che hai detto? L'hai presentato. Sì, sì, sì. Che cosa facevate entrambi? Tu insegnavi invece, giusto? Sì, io ho insegnato. Ho insegnato 40 anni. 40 anni io ho cominciato a insegnare a Milano, dopo essere laureata in lettere classiche, poi sono trasferita a Brescia con mio marito e prima ho insegnato al liceo scientifico, poi al liceo classico. Invece tuo marito era proprio un uomo politico di mestiere? Mio marito ha cominciato come impiegato e poi dopo ha fatto proprio passione politica. Senti, invece raccontaci, nella carriera di un professore, 40 anni di carriera, rimangono in mente alcuni allievi particolari? Tanti, ma per carità. Intanto, abitando a Brescia, dove appunto ho insegnato per più di 30 anni, tutti i giorni ne incontro uno di sicuro. Ci sono quelli che mi sorridono, ci sono quelli che sono un pochino più freddi. Beh, per esempio, quando ho fatto quel giro sul fiume Oglio, sì, alla fine, quando siamo sbarcati, vedo un tale che mi dice: ma lei non è venuta sul mio gombone? No, ero su un altro, perché? Ma l'avrei voluto sul mio gombone. Mi ha dato tanti di quei tre in latino, che mi sarei vendicato. E così, per fortuna. No, ci sono quelli che vorrebbero vendicarsi, è evidente. Senti, invece tuo marito ne faceva spesso di cose come queste, di dimenticarsi, avere delle sviste particolari? Sì, ne aveva. Preferisco non entrare nei dettagli, ma ne aveva. Va bene, senti, e poi ti saluto. Alla fine poi l'avete mangiato quel gelato in quel ristorante, oppure? L'abbiamo mangiato, veramente. Senti, Aria, io ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto. Grazie. Per il tuo racconto innanzitutto e per la tua cordialità per le chiacchiere. Ma voi siete simpaticissimi, siete carissimi, auguro buon Natale a tutti, soprattutto Radio 24, che è la mia radio, diciamo, preferita, perché sono sempre sintonizzata su Radio 24. Buon Natale anche a te, Aria, grazie mille. Grazie, ciao, grazie. Arrivederci. Voi siete qui. E come tutti i giorni da un paio di settimane a questa parte, sulla pagina di Voi siete qui, sul sito di Radio 24, trovate un'illustrazione che racconta il racconto di oggi. È un'illustrazione che racconta a modo e a fantasia dell'autore dell'illustrazione la storia di oggi. E quella di oggi è molto bella. Sullo sfondo c'è una spiaggia e un fiume immaginario che sembra quasi un'onda, e degli alberi azzurri come quelli che si potrebbero potrebbero incontrare non azzurri ma per forma sulle rive di un fiume, e al centro, proprio sullo sfondo color sabbia delle spiagge del Po, stilizzata con un tratto bianco, una tanica di benzina. Però Aria ci ha mandato anche una fotografia, è molto bella anche questa, come tutto il racconto di oggi, come la sua storia e la sua voce. È una fotografia di lei in casa con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ragazzi che immagino siano i suoi nipoti. Sono 1, 2, 3, 4, 5, no. 4 femmine e 2 maschi, uno però è piccolino, ma è un maschio. Sono seduti su un divano nel tipico soggiorno di una bella casa della provincia italiana. Aria ha una bella aria, perdonatemi il gioco di parole, ma non lo volevo fare. Ha i capelli grigi e, come dice lei, ha superato, cos'è che ha detto per definire? Ha superato il terzo quarto di secolo. Ha superato tre quarti di secolo, ossia oltre i 75. 349-238-6666, la peggiore che vi ha combinato vostro marito. Cassetta VHS, quindi si parla di anni fa, cassetta VHS con filmino integrale del nostro matrimonio. Mio marito non legge l'etichetta e inserisce nel videoregistratore e vi registra sopra una puntata della sitcom di Emilio. E qui, anni 90, ricordate Emilio? Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio. Sempre meglio di Basilio, se una femmina non so. Ne vedevo di televisione negli anni 90, ragazzi. Mio zio si è dimenticato sua moglie in autogrill, ma era in moto. Che non so se questa sia un aggravante rispetto al fatto di essere in auto, perché almeno in auto ci parli di solito, in moto è un po' più complicato, però c'hai una persona appoggiata dietro, effettivamente. Io mi sono dimenticato la moglie al parcheggio del centro commerciale. Lei è andata a riportare il carrello, io sono partito. Ripresa dopo circa 10 minuti. Christian, ma è tosta però anche dimenticarsela, cioè vuol dire che... non lo so cosa vuol dire. E poi mi arriva un messaggio che non so se forse solo Aria può dirlo, se sta sentendo ancora la puntata. Ho riconosciuto nel racconto di oggi l'ex sindaco del mio paese, nel senso che sono quasi sicura che sia lui. Ogni giorno passo il ponte sull'Oglio a lui intestato. Ma pensa te, questo omone che è nei miei vaghi ricordi di bambina. Chissà se è lui... Niente, semplicemente abbiamo collegato due cose. 349-238-6666. Oggi poi mi è arrivato un messaggio molto divertente che riguarda, mandatomi da Loredana, e che riguarda proprio uno di quegli episodi in cui di solito i mariti fanno delle gaffe. L'altro giorno un mio amico mi ha raccontato, ne ho fatta veramente una grossa, sono tornato a casa dopo 3 giorni al lavoro con le 3 bambine che saltavano in salotto, mia moglie mi è venuta incontro e mi ha detto: tu hai qualcosa da farti perdonare. Lui, siccome hanno avuto 3 figli a breve giro di posta, la prima cosa che ha chiesto è stata: no, sei ancora incinta? E lei ha detto: no, oggi era il mio compleanno. E il messaggio di Loredana racconta proprio di questa cosa. Pronto Loredana? Pronto? Ciao, buon pomeriggio. Ciao, come stai? Abbastanza bene, grazie. Senti, raccontamelo bene, perché non è che lui si è solo dimenticato il tuo compleanno. Lui ne ha fatta una, cioè ha fatto 2 giri in realtà. Esatto. Niente, è successo circa 7 anni fa. Io avevo i bambini piccoli e il secondo figlio, Mattia, andava all'asilo nido. Mm-hmm. Per cui dovevo comunque liberarmi della culla, perché lui, avevamo la casa piccola, dovevamo cambiare camera. E quindi ho chiesto al nido se per caso qualcuno era interessato a questa culla. Una signora gentilissima mi ha detto: sì, guarda, io sarei interessata, serve a mia figlia che sta per avere un bambino. Perfetto. Quindi il giorno dopo io gliela porto e, fatalità, eravamo vicini alla data del mio compleanno. Mm-hmm. E il giorno del mio compleanno, pochi giorni dopo, vado al nido a prendere Mattia e mi trovo una bellissima composizione di primule coloratissime, sì, enormi. E la maestra d'asilo mi dice: guarda, te l'ha lasciata la signora a cui hai dato la culla. Bene. No, scusa, non sono io che vado a prendere. Va tuo marito a prendere i fiori. Va mio marito, scusa. E torna con i fiori, giusto? E torna con i fiori. Io, quando lo vedo arrivare con questa composizione bellissima, resto senza parole, perché lui non mi ha mai regalato dei fiori. Il problema però è che non te li aveva regalati neanche quella volta. No. Ok, adesso il è chiaro. Il fatto è che quando io sono ritornata, un giorno sono tornata all'asilo, ho trovato quella signora che gentilmente mi chiede: Loredana, hai gradito i fiori che ti ho dato? A quel punto tuo marito l'ha confessato. L'ha confessato tuo marito? Sì, tranquillamente. Ok. Loredana, ti ringrazio moltissimo. Saluta tuo marito. Grazie. Ciao, ciao, buona giornata. Natale. Anche a te. È arrivata una mail che, perché quando arrivano queste mail io ho sempre la sensazione che davvero se la raccontassi io sembrerebbe finta. Invece questa mail è una mail di Alida che racconta di una svista gigante di suo marito. Caro Matteo, ti avrei sempre voluto scrivere una storia, ma non sapevo quale scegliere. Poi, quando oggi ho letto sul tuo profilo Facebook che chiedevi episodi legati ad enormi sviste dei mariti, ho pensato che questo era il tema perfetto di cui scrivere. Io ho 70 anni e sono sposata da 45. Vedi, mio marito è un'incredibile e straordinaria persona. Lo amo e lui mi ama, ma stare con lui presuppone una pazienza infinita. Su tutte, la volta in cui è rimasto senza benzina con la sua auto. Questo di per sé non sarebbe un episodio particolarmente tragico, se non fosse che il giorno in cui quell'auto rimase senza benzina era quello del matrimonio di nostra figlia Giuliana, e lui la stava accompagnando in chiesa. La chiesa si trova ad una ventina di chilometri da casa nostra. Lui era partito con lei in modo da arrivare con il canonico ritardo che le spose devono avere sull'orario di inizio della cerimonia, 5-10 minuti. Era giugno e faceva già un gran caldo. Io ero dentro la chiesa mentre il mio futuro genero, Luca, aspettava sulla soglia. Passati i primi 10 minuti tutto era tranquillo. Passati altri 10 minuti le cose iniziavano a sembrare strane. Dopo mezz'ora cominciamo a preoccuparci. I cellulari non erano in voga all'epoca e mio marito non ne possedeva uno. Figuriamoci mia figlia in abito da sposa. Chiamammo i vigili urbani che iniziarono una ricognizione nei dintorni. Ebbene, dopo un'ora, quando tutti ormai temevano il peggio, la Fiat Uno dei vigili urbani fece la sua comparsa sul sagrato della chiesa con le sirene spiegate. Davanti, vigile e vigilessa. Sul sedile posteriore, mio marito e mia figlia. La macchina aveva solo due porte, quindi nell'atto di scendere dall'automobile, lo strascico dell'abito di mia figlia si incastrò nel sedile e si strappò. Io ero furibonda e obbligai mio marito a stare sul banco opposto al mio in chiesa. Quando dopo 6 ore sbollì la mia rabbia, la sua giustificazione fu: mi ero ripromesso di fare il pieno dopo la cerimonia. Lo amo, ma stare con lui è un po' dura. A presto, Alida. Il giorno prima del matrimonio con il mio ex, decidiamo che mentre vado a sistemarmi i capelli, lui attacca la lampada che ci hanno regalato. Torno dal parrucchiere, suono, silenzio. Risuono, silenzio. Il campanello di casa non funziona. Dopo aver quasi tirato giù la porta a forza di bussare, mi viene ad aprire lui, con i capelli bianchi di polvere e pezzi di calcinacci qua e là. E quello che mi dice è: non ti incazzare. Pronto, Arianna? Ciao. Ciao, come stai? Rido ancora se ci Beh, mi fa piacere che tu rida. Quanto è successo? Quanto tempo fa è successa questa cosa che ancora ci devi spiegare? Ma parecchio tempo fa. Appunto, giorno prima del matrimonio. Già vivevate insieme, mi sembra di capire. Sì, sì, vivevamo insieme da una vita e avevamo deciso di sposarci, quindi vabbè, poco convinta, cerco un vestito da mettere in matrimonio, vado al parrucchiere, come si fa? E lui ha detto: benissimo, io attacco questa fantastica lampada che amici ci hanno regalato. Sì. Se non che, vabbè, quando sono tornata, ho suonato il campanello, c'era questo silenzio di tomba inquietante e me lo sono visto comparire sulla porta bianco con pezzi di calcinaccio. Ho detto: oddio, non cioè, è possibile. Aveva cercato di attaccare una lampada, però aveva tirato giù il soffitto, mi sembra di capire, o una parete. Sì, o... sì, sì. No, aveva proprio fatto un buco enorme sul soffitto, una voragine alla ricerca di un cavo elettrico che non c'era. E poi non so cos'altro ha fatto, insomma, un disastro. E quindi elettricista. Quindi elettricista. Sì, senti, quindi elettricista. Cosa faceva nella vita? Cioè, cosa fa? Non lo so. Lui fa il designer, è un creativo, ma sicuramente il mondo, l'elettricista non è il suo mestiere. Il mondo ha bisogno di più elettricisti meno creativi. Senti, quanto siete stati sposati poi? Siamo stati sposati, beh, in tutto siamo stati insieme più di 10 anni. Era divertente, era un po' come vivere a Luna Park, ecco. Ma il matrimonio in sé quanto è durato? Il matrimonio in sé è durato 4-5 anni. Sì. Arianna, ti ringrazio moltissimo per la storia e le chiacchiere. Sicuro, buona sì, giornata, ciao, grazie, sì, ciao, grazie mille. Matteo mi scrive, non so chi, tu non sei sposato e non puoi capire, a volte dimenticarsi la moglie è una catarsi, grazie a lui, grazie a Paolino Corleoni, a Margherita Ina, a Tiziano Bonini e a Federico Bernocchi. La storia di oggi era la storia di Aria, parlava di sviste, quella di domani è la storia di Antonella e parla del giorno più bello che era iniziato male. Mi portò al ristorante, che era un evento unico, che nemmeno con la mamma ci andava. E oggi che sono passati 30 anni, mi ricordo ancora tutto il menù. Risotto ai funghi, arrosto di maiale e soprattutto la meravigliosa torta di noci. Dopo aver mangiato, mi stavo incamminando verso casa, ma papà mi ha preso per mano e mi ha detto se avevo voglia di andare al cinema. Io sapevo che esisteva il cinema di pomeriggio, ma non c'ero mai andata. Nessuno di noi c'era mai andato.